Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parliamo di pesce, quindi forse un argomento molto interessante anche per chi in queste ore magari sta andando in qualche località balneare, ovviamente sempre tempo permettendo. Parleremo di pesce in maniera forse inusuale, per dare anche una brutta notizia agli italiani, perché dal 21 aprile è scattato un qualcosa di molto particolare, che dal punto di vista tecnico viene chiamato Fish Dependence Day. Cosa significa? Significa che dal 21 aprile si è esaurito tecnicamente, diciamo, il consumo del pesce italiano. Ora vogliamo spiegare bene, perché magari qualcuno può ritenere che da domani o da oggi va a comprare e non c'è più pesce italiano. No, non è così. Significa che da oggi siamo dipendenti dall'estero per una percentuale molto alta di pesce e avremmo teoricamente esaurito, diciamo, il pescato complessivo di un anno, che è abbastanza importante, ma soprattutto è importante che da oggi cominceremo a importare il 70% del pesce dall'estero e il nostro, diciamo, fabbisogno italiano viene esaurito solo per il 30%, diciamo, dal pesce locale. Quindi, cari gastronauti, cari radioascoltatori, significa molto, significa che siamo dipendenti appunto dalle importazioni di pesce e che al giorno X appunto tecnicamente e teoricamente abbiamo esaurito le nostre riserve, ma lo ripeto, non è che domani mattina non troverete più pesce italiano, è un fatto semplicemente tecnico, è un fatto di dati che però portano a tutta una serie di ragionamenti molto importanti. Innanzitutto la grave importazione dall'estero appunto di un fabbisogno così consistente, che dipende anche e soprattutto da questa domanda continua di pesci, chiamiamoli ricchi, branzino, rate, tonno, e mentre vengono dimenticati i cosiddetti pesci poveri, che sono molto importanti nei nostri mari, soprattutto nel Mediterraneo, e che sicuramente una volta conosciuti potrebbero essere sicuramente importanti per colmare appunto questo deficit così rilevante. E allora iniziamo un giro d'orizzonte per capire appunto le conseguenze, per capire perché, e inizio questo giro da Daniela Bordiello, che è referente regionale di Impresa Pesca Coldiretti di Savona. Buongiorno Boriello. Sì, buongiorno. Allora, è un allarme molto importante questo che avete dato come Coldiretti. Beh, sicuramente. Noi già da tempo stiamo facendo un'azione di promozione proprio del cosiddetto pesce povero, come lei l'ha definito, proprio perché purtroppo dai dati statistici appunto che lei ha evidenziato poc'anzi si riscontra questo problema, cioè il 70% del pesce consumato nel nostro paese è pesce importato. Noi stiamo procedendo con questa attività di promozione proprio perché nei nostri mari, Mar Ligure nello specifico, ma nel Mediterraneo in generale, i pesci locali ci sono, il pesce c'è. Purtroppo la richiesta del mercato va sempre verso determinate tipologie di pesce specifiche e quindi la quantità di pesce, cosiddetto pesce povero, sugherelli, bughe e via dicendo, rimangono invenduti e non richiesti, e quindi anche i pescatori stesso non li pescano perché il mercato non li richiede. Quindi c'è una doppia conseguenza, giustamente, non mancando la domanda, è ovvio che i pescatori preferiscono così portare a riva il pesce che va di più e sono sicuri che i consumatori lo utilizzano. Ma cosa si potrebbe fare per informare di più il consumatore? Ma noi come associazione stiamo già da tempo facendo diverse, a parte le manifestazioni ad hoc, le manifestazioni che vengono diciamo organizzate, nelle quali anche dal punto di vista della ristorazione si cerca di promuovere questo pescato proprio per farlo conoscere qualitativamente, far conoscere come si può preparare, far conoscere che è un pescato che comunque ha un costo anche basso in una situazione di crisi economica nella quale ci troviamo ormai da un po' di tempo, e quindi farlo apprezzare, di modo che poi conoscendolo il consumatore possa andare sui banchi sui banchi dei pescatori a richiedere proprio queste tipologie di pesce, e questo è già da un po' che lo si sta attuando. Ci sono progetti specifici anche proprio per quanto riguarda la Liguria, in collaborazione anche con l'Acquario, dove si continuano ad organizzare incontri, ad organizzare specifici incontri su questa tematica qua, proprio perché molti consumatori non sanno neanche che esistono questi pesci e di conseguenza non li... Ecco, vogliamo nominarne una decina di questi pesci, così magari chi si sta ascoltando probabilmente domani mattina o stamattina stessa va in pescheria e magari certo. Si ricorda. Sì, allora, il cosiddetto pesce povero, che poi povero non è, certo. Può essere esemplificato proprio nella nostra regione attraverso i sugarelli, le boghe, le sardine, sono tutti pesci della le alacce, sono tutti pesci del pesce azzurro, diciamo, della famiglia del pesce azzurro, che sono, ripeto, di ottima qualità. E le cavalle, le chiamiamo appunto qui da noi le cavalle, sono pesci, i palamiti, i boniti, sono piccoli tonnetti anche quelli, che hanno delle caratteristiche organolettiche enormi, di enormi qualità, e hanno veramente un prezzo basso e quindi potrebbero essere far parte, diciamo, di una dieta ricca da parte del consumatore, ricca dal punto di vista delle qualità organolettiche e anche del sapore, sicuramente. Esatto, dal punto di vista dei costi Bene. Economici. Grazie a Daniela Borriello. Ora chiedo al direttore di Eurofish Market, Valentina Tepedino. Buongiorno Valentina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Valentina, puoi aggiungere tu altre specie che sono state nominate ora di sì, pesce? Sì, vedevo che quando si parlava di cavallo che aveva il lanciardo, pensavo lo intendessero perché adesso, diciamo, il ministero dal 2002 ha dato questa agevolazione di dare un nome obbligatorio praticamente a tutte le specie ittiche che sono in commercio, proprio per facilitare un po' il consumatore nel riconoscerle. Come diceva però giustamente prima la dottoressa, il problema è che la gente compra sempre le stesse cose, quindi noi ne avremo anche alcune specie alternative, non le chiede nessuno. Quindi aggiungendo altre specie possiamo dire sicuramente i cefali, secondo me ci sono almeno 3 specie di cefali in particolare che sono assolutamente incredibili come sapore, anzi chi li conosce li preferisce al branzino, tanto per intenderci. Beh sì, potremmo aggiungere l'ala lunga per esempio, il chiozzo, il gattuccio, e poi ce ne sono ancora tantissime. Secondo me bisognerebbe veramente insistere su questo fatto e far vedere, specialmente dovrebbero essere anche le pescherie, ma hanno interesse le pescherie. Questo secondo me rimane il problema di base. Valentina, secondo te cosa si può fare? Cosa si potrebbe fare? Sempre come dicevo prima, la cosa principale è partire dalla base, secondo me in questo caso dal consumatore, quindi facendo più formazione. Io proprio entrerei nelle scuole a fare inserire proprio il consumo consapevole di quello che si acquista, per metterlo poi nel nostro corpo, e fare informazione sul fatto che ci sono delle alternative, facendo toccare i ragazzi. Anche noi abbiamo fatto diverse esperienze attraverso il nostro lavoro con ragazzi soprattutto di prima media che sono molto sensibili e secondo me sono ad un livello anche di percorso che gli consente di essere più curiosi, ma anche poi riportare queste informazioni nel modo più corretto possibile alle famiglie. E abbiamo ottenuto che neanche al terzo giorno di lezione, che poi in tutto si può raccogliere in 3 ore, volevano poi pulire le alici e andare al mercato a comprarle, considerando che prima, quando siamo entrati in aula, si giravano quando li mettevi vicino il naso una alice, una sardina, perché la loro idea è il pesce puzza, lo mangio perché mi costringe o mia madre o la scuola, e molte volte tutte queste cose. Quindi sicuramente sarebbe molto importante partire dalla cultura delle famiglie e dei ragazzi. Ma io credo che bisognerebbe fare assaggiare pane, burro e acciuga come, diciamo, merenda. Ecco, se si cominciasse a farli abituare da bambini a questo gusto straordinario dell'acciuga, magari con un po' di burro per alleggerirlo, secondo me crescerebbero molto meglio. Assolutamente, perché poi loro chiedono, e se loro chiedono, loro il pescivendolo sì che ha interesse. Perché ha interesse? Perché mentre sulle specie più conosciute il suo margine è limitato, perché gli costano anche lui tanto, quindi non è che può caricare più di tanto, perché sennò alla fine diventa un'esagerazione. Sulle specie povere lui può caricare di più volendo, e ci guadagna di più il pescatore, ci guadagna di più il consumatore, perché spende comunque meno. Certo. Quindi realmente avrebbe l'interesse a farlo, se c'è richiesta, chiaramente. Speriamo, ma sai, la richiesta secondo me bisogna stimolarla dall'esterno. Il gastronauta. Eccoci a parlare di pesce. Ho detto prima il 21 aprile è scattato il Fish Dependence Day. Cosa significa? È un segnale rosso, lo ripeto, è un segnale teorico. Vuol dire che al giorno X, appunto il 21 aprile, praticamente abbiamo consumato tanto pesce, teoricamente, quanto ne produciamo internamente, perché noi produciamo il 30% del nostro fabbisogno e questo dato scende di anno in anno, importiamo il 70%. E allora, lo ripeto, non è detto che domani mattina andate in pescheria e trovate solo pesce che arriva dall'estero, no, è un segnale, come dicevo prima, un semaforo rosso per dire attenzione, attenzione, che il nostro consumo di pesce è molto superiore alle nostre possibilità. Perché? Perché diciamo che quasi tutti scelgono i soliti pesci, quelli chiamiamoli ricchi, che la maggior parte proviene dall'estero, mentre dimentichiamo tutto il nostro pesce del mare Mediterraneo, del Mare Nostrum, che sarebbe davvero tanto. E probabilmente, ora lo chiedo a un bravissimo biologo marino che ogni tanto noi chiamiamo, Corrado Piccinetti, appunto dell'Università di Bologna. Buongiorno Piccinetti. Buongiorno. Stavo dicendo che, le ripeto, dicevo che è scattato il Fish Dependence Day, diciamo questo segnale rosso teorico, però che ci siamo mangiati praticamente già per un anno tutto il pesce che produrremo durante l'anno. Allora mi chiedo, ma questo 70-30%, questo 70 che importiamo, 30% che diciamo produciamo di nostro, con tutto il mare che abbiamo, con tutto diciamo la quantità di acqua che abbiamo, ma non riusciamo a recuperare un po' questo dato? Si potrebbe? Si potrebbe sicuramente, però bisognerebbe volerlo, e al momento attuale la volontà è quella di ridurre l'importanza della pesca, perché sembra una cosa strana, ma tutte le politiche comunitarie che sono state fatte, che hanno delle loro motivazioni, hanno portato a ridurre la flotta degli ultimi 10 anni di 6.000 barche, quindi da 19.000 adesso siamo 13.000 barche, è evidente che 13.000 barche pescano meno di 16.000, quindi la percentuale di pescato è diminuita, quindi abbiamo circa 150.000 tonnellate all'anno di minore pesce per catturato nei mari italiani, però il consumo continua a esserci, quindi lo si importa. Di conseguenza adesso non è proprio il 70, ma è oltre il 60% sicuramente. Bene, rimanga con noi Piccinetti. Ora voglio andare da uno chef del ristorante Vescovado di Noli, Giuseppe Ricchebuono, perché Giuseppe Ricchebuono nel suo menù propone tutta una serie di quei famosi pesci, chiamiamoli così, dimenticati, poveri, come si vuol dire, e lui ci riesce. Ricchebuono, perché lei ha fatto questa scelta? Buongiorno. Ma diciamo che la mia è stata una scelta coerente col mio modo di pensare, nel senso che mi limito a leggere il territorio. Il territorio ci dà grandissime cose che sono a volte sconosciute, quali pesci che solitamente io adopo nel mio menù, che sono la palamita, il sugarello, la leccia, il pesce leccia, il pesce serra, la boga. Ecco, questi. Quindi mi scusi, Ricchebuono, ma si trovano allora questi pesci? Sì, assolutamente. Guardi, io ho la fortuna che dalla mia cucina ho la fortuna di vedere i pescatori arrivare a Noli, quindi abbiamo subito un primo segnale già dal mare delle pescate che vengono fatte la mattina. Ovviamente non sono fatte in grandissime quantità, perché come ben sa il nostro mare purtroppo dà una grandissima qualità, ma come quantità purtroppo lascia un po' a desiderare, ma forse questa è una fortuna, che appunto non va a intaccare la qualità del pescato, del nostro pescato. Quindi si può fare una grande cucina con questi pesci? Assolutamente. Guardi, il nostro cliché è abbinare questi prodotti del mare con i prodotti della terra della nostra regione, quindi si riescono a creare dei piatti curiosi, interessanti, con prodotti veramente molto vicini a noi e inusuali. Ecco, volevo chiedere anche un'altra cosa, molto, diciamo, se lei è molto sincero, molto aperto, ma costa meno un menù diciamo a lei come costo di cucina, come food cost fatto con questi pesci? Ma diciamo che la partenza sicuramente il prodotto costa di meno che un pescato di una dimensione grande quale può essere una spigola o un'orata, però il problema e la difficoltà nel lavorare questo prodotto, che purtroppo non si ha una misura standardizzata, e quindi a volte ci troviamo a pulire dei prodotti che sono molto piccoli, quindi lo scarto diventa importante nel prezzo finale del food cost del piatto. Bene, anche lei rimanga con noi, perché ora voglio fare una domanda a Gilberto Ferrari, direttore della Feder Coop Pesca Cooperative. Buongiorno Ferrari. Buongiorno. Volevo chiederle, Ferrari, come mai questa diminuzione di barche che pescano? C'è crisi? Il pesce poco remunerativo? No, dunque, le barche diminuiscono perché questo è un preciso indirizzo dell'Unione Europea, che va avanti da molti anni, quindi è la ricerca del punto di equilibrio nello sforzo di pesca, come ci esprimiamo noi, insomma, tecnici, per cui l'equilibrio fra le risorse disponibili e il prelievo che si può fare con le imbarcazioni, e quindi questa è una tendenza che va avanti da molti anni: si riducono le imbarcazioni, si riducono purtroppo anche i posti di lavoro e conseguentemente si riduce anche il prodotto sbarcato. Ecco, quindi siamo in un momento di svolta molto critico, insomma, in questo momento, di fronte a questa situazione, perché ovviamente, visto il fabbisogno di pesce rispetto a quello che importiamo, se riduciamo anche la flotta, sicuramente il nostro fabbisogno continuerà ad aumentare. Sì, adesso qui poi, come al solito, i numeri sono affascinanti perché si prestano a delle letture, come dire, anche diverse, se vogliamo. Adesso, in questo momento noi abbiamo una contrazione che, le dicevo, dipende anche da questo, cioè dalla necessità, secondo gli indirizzi europei, di ridurre appunto il prelievo, ma ci sono poi anche fattori assolutamente congiunturali legati, per esempio, alla crisi dei consumi, che è ben nota a tutti quanti. Però non si può dare un giudizio complessivo, perché ci sono settori che vedono magari diminuire il prodotto sbarcato, i valori anche di produzione, i consumi, e settori sempre nella pesca in cui questo non avviene. Per esempio, quest'anno noi assisteremo per la prima volta ad un aumento nel prelievo del tonno rosso in Mediterraneo, dopo molti anni di riduzioni di catture, perché lo stato degli stock mostra evidenti segni di ripresa, e quindi questo consente una, sia pur leggera, aumento, comunque un prelievo maggiore. Quindi è una situazione che va analizzata sempre in chiaroscuro, comunque nel complesso si rischiano di fare delle sintesi forse un po' troppo. Certo, quindi vuol dire che dal segnale del tonno, che sempre, si era sempre diminuito anche il pescato di tonnara, mi sembra intorno al 18 maggio che scadeva il giorno fatidico in cui veniva interrotta un po' la pesca, vuol dire che c'è un ripopolamento. Piccinetti, allora il tonno rosso, ci sono segnali incoraggianti? Sono molto incoraggianti quelli del tonno rosso, effettivamente. Non è da adesso, lentamente si è ricostituito, perché i tonni che abbiamo adesso hanno 6-7 anni di età, anche quelli che sono i più abbondanti, quindi non è che sono arrivati per le provvedimenti che sono stati presi l'anno scorso o due anni fa. È una risorsa che sta aumentando, ma le risorse a mare non risentono molto di questa situazione, che uno dice il pesce è diminuito, lo abbiamo finito. Ci sono dei motivi economici, che è dato dal costo dei carburanti, le spese eccessive, eccetera. E il pesce, che evidentemente qualche specie è stata nella stessa consistenza, qualcuno è diminuita, qualcuno è leggermente aumentata, quindi con delle grosse differenze da specie a specie e da area a area. Quello che succede in Liguria non è identico a quello che succede in Alto Adriatico, ad esempio. Ecco, Piccinetti, visto che lei, oltre un bravo biologo marino, è anche un buon gustaio, può dare due o tre pesci cosiddetti minori, così ai nostri radioascoltatori che vadano a cercare in pescheria, perché sono ottimi da cucinare? Ma quello che ci ha detto il cuoco di Nolis è meraviglioso, perché lui ha finalmente capito che si può utilizzare dei pesci che normalmente alla produzione, al pescatore, costano poco: delle bobe, dei sugherelli, le palamiti, sono tutti dei pesci che in genere il pescatore molto spesso deve ributtare in acqua, perché non c'ha un ricavato sufficiente per fare quel minimo di metterci il ghiaccio e portare la cassa al mercato. Quindi questi, se uno li trova, e cercandoli, chiedendoli al pescatore, lui glieli porta, quindi ci sono, costano meno la produzione. Come ha detto giustamente il nostro chef, succede che ci vuole un po' più di tempo per la lavorazione. Se la famiglia, c'è una persona che ha del tempo, che può squamare il pesce, pulire il pesce, sfidettarlo, eccetera, vengono dei piatti che sono meravigliosi, perché c'è un insieme di sapori, ogni pesce ha un sapore diverso l'uno dall'altro. Certo. E se uno riesce a recuperare tutti questi sapori, che questi sono tre o quattro, ma ce ne sono alcune decine di questi pesci, di questi prodotti, che non vengono consumati diciamo in relazione alla quantità o alla disponibilità che ci potrebbe essere, e questo evidentemente comporta anche una perdita di sapori diversi che uno non sente più. E quindi giustamente quando qualcuno, uno chef lo fa, riesce a dare ai suoi clienti dei sapori che sono unici, che molti non avevano mai sentito, mai gustato. Beh, e quindi c'è un recupero meraviglioso di gusti e di sapori. Guardi, io dico sempre un po' a tutti, mangiate meno tonno e mangiate più palamita o palamita, come si dice da alcune parti, perché sicuramente non è da meno. Quindi, però questa notizia confortante che ci ha dato Ferrari, che per anni era stato un po' un allarme sul diciamo il tonno rosso in via d'estinzione, vuol dire che qualcosa di buono e di positivo sta succedendo. Bene, grazie a Piccinetti, grazie a Ricche Buona, grazie a Gilberto Ferrari. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pesce. A parlare di pesce, lo ricordo, il 21 aprile è scattato il Fish Dependence Day. Significa che ci saremmo mangiati, teoricamente, stando ai dati, tutto il pesce italiano possibile, e di conseguenza tutto arriva attraverso l'importazione. Come dicevo, è un fatto teorico, perché le importazioni comunque di pesce sono 65% e diciamo il nostro pesce dei nostri mari è il 35%. È evidente che domani, lo ripeto ancora perché non vorrei essere frainteso, lo dico per la centesima volta, non è che domani mattina non si trovi più il pesce italiano, no. Ma da questo calcolo si capisce che già in pochi mesi la nostra disponibilità ce la saremmo giocata tutta, teoricamente. E allora io ora volo in Sardegna da un bravissimo chef che è Roberto Pezza. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Del Sapposento, ora a Siddi. Bene, a Siddi, chi lo ha conosciuto, lo ha conosciuto a Cagliari, quindi sicuramente molto volentieri do questo nuovo indirizzo di Roberto. Bene, anni fa, mangiando da Roberto sul suo menù, lui che credo sia nato a Sant'Antioco o vicino, probabilmente quindi nella zona del tonno rosso, aveva scritto che non cucinava, proprio per un motivo di rispetto a questo pesce che era in via di estinzione, non cucinava questo pesce. Ecco, è ancora così, Roberto? Assolutamente sì. Non mangio e non cucino pesce da ormai 10 anni. Ah, tutto il pesce non mangi? Nessun pesce? No, non mangio il tonno. Il tonno rosso. Allora, ecco, io ti chiedo proprio questo, visto la tua scelta, che sicuramente è una scelta molto importante, di rispetto, quindi verso il mare e verso l'ambiente. Ti chiedo, tu quali pesci utilizzi in questo momento, nei vari momenti, nel tuo ristorante, visto che fai una cucina di pesce anche? Io, come da buon talebano che sono, certo, in questo senso cerco di utilizzare il pesce di stagione, quindi... Perfetto, ti interrompo, hai detto una cosa straordinaria, hai detto pesce di stagione. Bene, allora qui bisogna aprire una grande parentesi, perché molte persone, molta gente, molti consumatori, ma anche molti addetti ai lavori, quando gli dici pesce di stagione, questi dicono, ma questo è un po' matto. In realtà esiste e come la stagionalità del pesce, vero Roberto? Assolutamente, perché i pesci non sono in tutte le stagioni, quindi non sono uguali in tutte le stagioni, diciamo. E poi ci sono stagioni di riproduzione dove sarebbe bene non comprare quel tipo di pesce. E quindi cerchiamo di valorizzare il pesce che è stagionale, dove è in piena forma, è eccezionale, magari anche a un costo minore perché se ne pesca tanto. Certo, esatto. E poi cerchiamo di sfruttare più quel cosiddetto pesce povero, che tante volte viene snobbato perché si dice che ha tante spine, perché magari è di piccola pezzatura o magari non è lorato la spigola. Ecco, e tu hai detto appunto pesce di stagione, diciamo che forse anche la consistenza e la qualità della carne dipende anche, cioè da varie stagioni e da vari momenti del pesce. Il pesce non è sempre uguale. No, assolutamente, proprio per questo la stagione è molto importante, perché si capisce, il pesce stagionale ha un sapore, un gusto completamente diverso da quello che poi... Sai, il pesce si trova tutte le stagioni, però non sempre in splendida forma, perché se tu prendi un dentice che non stagionale è magro, perché magari ha appena deposto le uova, è molto duro, è molto coriaceo, quindi bisogna scegliere. Ecco, tu hai detto appunto la stagionalità che porta sicuramente anche a un minor prezzo. Diciamo che porta ad altre conseguenze di cui appunto stiamo discutendo su questa trasmissione, che quando c'è una grande abbondanza di una, diciamo, di una varietà di una specie di pesce, sicuramente non c'è bisogno di importarlo, quindi si mangia pesce nostrano. Assolutamente, noi infatti il pesce lo scegliamo per stagione, per disponibilità e soprattutto per non inserire sulla sua salute, perché purtroppo il polpo viene pescato in tutti i periodi e si pagano prezzi allucinanti per averlo magari a gennaio quando non è la sua stagione. Non è perfetto, è piccolino, è di... sotto misura e tutto quanto, quindi questo sarebbe bene fare un po' di comunicazione su questo punto qua. Ecco, io ho fatto proprio questa trasmissione per cercare di fare comunicazione, solo che vabbè, una trasmissione radio non è che può molto, però io invito molti altri mezzi, invito gli stessi ristoratori a fare comunicazione in questo senso. Ora voglio che tu mi dica quali sono secondo te i pesci stagionali, appunto tu sei in Sardegna, quindi in Sardegna da scegliere in questo momento. Beh, adesso sta iniziando il pesce azzurro, quindi lo sgombro locale, il sugarello, la palamita, tutti questi pesci che, ripeto, vengono chiamati poveri, ma lavorati in un certo modo sono eccezionali. Beh, direi che sono anche ricchi di omega 3, tra l'altro. Assolutamente, quindi snobbarli è un peccato. Magari poi per andare a prendere una spigola allevamento o di importazione, che sicuramente non ha lo stesso gusto e le stesse proprietà di un pesce pescato localmente. Ecco, tu come chef, questi pesci, cioè riescono forse anche meglio su certe ricette rispetto a quelli scontati, il famoso branzino, orata e via di seguito? Assolutamente, però mi piace fare questo tipo, lavorare questo tipo di pesci, proprio perché prima di tutto una sfida, far capire che puoi tirar fuori un piatto eccezionale con un pesce che tutti snobbano, tipo, che so, il sugarello, che è un pesce molto snobbato, di solito viene ributtato in mare perché non c'è mercato, quindi sempre per inserire sulla fauna marina, è un peccato, quindi utilizzarlo in ristorante, farci dei grandi piatti è una sfida, ma è anche un gran piacere. Ma guarda, rimani con noi comunque, ora sentiamo Silvia Gambaccini, ma prima di passare la parola a Silvia Gambaccini di farle alcune domande appunto su un'iniziativa particolare, voglio proprio dire che 2 settimane fa io ho mangiato un sugarello straordinario, cioè elaborato dal cuoco in maniera tale che secondo me superava qualsiasi tipo di branzino o di orata o no, non so altro, perché i sapori di molti pesci considerati minori, considerati dimenticati, come vogliamo, in realtà hanno dei sapori che sono straordinari e devo dire in molti casi molto più efficaci e molto più profondi di tanti pesci conclamati. Ma io credo che la colpa non sia solamente del consumatore, la colpa sia di una mancata informazione e devo dire, caro Pezza, se non è rivolto a te questo, ma di molti ristoratori, che è molto più comodo avere a casa il pesce sfilettato già pronto, o magari i filetti o i tranci, e poterli realizzare. Quindi diciamo che anche in questo caso io vedo pochissimi e sento pochissimi chef che vanno al mercato, molti invece aspettano magari società di distribuzione con pesci che arrivano da tutto il mondo tranquillamente in cucina. Vabbè, questa è una mia parentesi un po' provocatoria, ma ci tenevo a farla. Silvia Gambaccini è della società cooperativa Aplisia di Livorno. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Forse ci siamo sentiti anche tanto tempo fa, appunto, voi avete fatto un progetto Pesce dimenticato dalla rete alla cattedra. Cosa significa? Sì, praticamente è la seconda annualità di uno stesso progetto che stiamo portando avanti, e cioè stiamo cercando di promuovere il pesce povero, che noi abbiamo chiamato pesce dimenticato perché povero non ci piaceva tanto. Lo scorso anno, quando ci siamo sentiti, stavamo lavorando con i ristoratori di Vetrina Toscana e con la grande distribuzione, quest'anno invece siamo andati a scuola, ecco perché dalla rete alla cattedra. Ci siamo rivolti agli studenti degli istituti alberghieri della Toscana. Ecco, prima di passare a questo, io sono curioso di sapere i risultati della campagna che avete fatto, mi sembra, con 21 ristoranti toscani, se ben ricordo. Ecco, quali sono stati i risultati? Sono stati importanti? Cioè, finito quel periodo lì, non è che i ristoratori siano tornati alle vecchie maniere? Dunque, mi ricollego un po' a quello che hai detto in precedenza, cioè le difficoltà che ci sono sia da parte dei pescatori che da parte dei ristoratori. I ristoratori sono abituati ad avere i commercianti che portano il pesce direttamente ai loro ristoranti e sono abituati ad ordinare specifiche specie, mi ripeto in questo, non sono ancora entrati nell'ottica che bisogna cucinare e presentare piatti a base di pesce di stagione, quindi quel che offre non il mercato ma il mare, perché il mercato purtroppo offre di tutto. E allora far entrare nella testa dei ristoratori che possono cucinare al posto del sugarello, se il sugarello non c'è, il lanzardo o lo sgombro, perché il piatto riesce bene ugualmente, questo è veramente molto difficile. Per cui lavorando con pescatori professionisti, ma che trattano prodotto locale, abbiamo senz'altro trovato delle difficoltà. È un processo lento da avviare, ma noi continuiamo perché crediamo in questo progetto. Ecco, rimani con noi perché poi passeremo alla seconda parte appunto di questo progetto, però voglio fare un'ultima domanda a Roberto. Roberto, credi che sia un po' finita l'era del sushi e quindi del tonno usato come manzo? Non lo so, un po' se ne è abusato e questo mi fa piacere perché ormai lo si trova da tutte le parti. Io continuo a dire ai miei clienti quando mi chiedono: ma il sushi non lo fai? Io sono italiano, cerco di fare la cucina locale e esaltare i prodotti locali, quindi se anche faccio un crudo cerco di utilizzare i pesci che ho a disposizione e quelli che per me vanno meglio, quindi fare il tonno non è una priorità, non è una cosa che, ripeto, mi piace preservarlo per com'è, pur venendo da un'isola dove... Appunto, pur venendo da un'isola nota per questo, e credo che molti clienti che arrivano, la prima cosa che chiedono è il tonno. Certo. Bene, però tu resisti, bene. Io resisto, anche con tante polemiche, perché sai, i pescatori certo. E le associazioni qua sono agguerrite su questo. Perché... Ma tu usi il muggine però? Uso tantissimo il muggine, per esempio ora abbiamo, perché... periodo buono per il muggine, l'anguilla, soprattutto sugarelli, sgombri, boghe, tutto il pescetto della piccola pesca. Il muggine in questo momento lo stiamo servendo affumicato con il casagedo, che è un formaggio acido, certo. la cagliata acida e una salsa d'arance, e devo dire che è un piatto eccezionale, pur essendo un pesce poverino. Bene, grazie a Roberto Pezza, Sapossentu a Siddi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di pesce dimenticato, come giustamente dice Silvia Gambaccini, anch'io lo chiamo dimenticato, povero, insomma, chiamiamolo come vogliamo, ma è un pesce straordinario. Poi abbiamo dato tante raccomandazioni, io ne voglio dare un'altra, diciamo, importante, che perché si avvicina l'estate, si avvicina agosto, luglio, quando tutti corrono al mare, tutti vogliono mangiare pesce. Bene, sicuramente, come posso dire, è un desiderio e va conservato, non va, diciamo, disilluso. Però attenzione, perché in agosto, proprio nei posti di mare, la domanda sale veramente a dismisura. Poi attenzione alle sorprese, nel senso che sicuramente pesce straordinario in quel periodo probabilmente non ce n'è, e quindi attenzione, non crediate che agosto sia il mese migliore per mangiare pesce. Così, Gambaccini? Sì, sicuramente così, non è il mese migliore. Ecco, allora la cattedra, siamo passati agli istituti professionali. Io credo che l'informazione e l'educazione debba essere proprio fatta lì, cioè sulle nuove leve. Sì, certo, noi speriamo questo. Abbiamo cercato di formare quelli che saranno i futuri cuochi del domani. Quindi anche noi abbiamo lavorato con Special, ho sentito che avete nominato il Muggine. Abbiamo lavorato tantissimo con il Muggine perché si è appena concluso il concorso gastronomico che ha riguardato queste scuole, che si è svolto proprio nei mesi di marzo-aprile. Per cui a marzo-aprile, fornendo il pesce alle scuole, è stato portato soprattutto Muggine e sono riusciti ad ottenere delle ricette veramente eccezionali. La carne del Muggine è una carne buona, solo che è un pesce maltrattato perché alcune volte può avere dei sapori cattivi, ma soprattutto se il Muggine è pescato nei fiumi. Ecco, mangiando fango si contamina, certo, con le sostanze non buone che possono trovarsi nei fondali. Ma volevo ricordare che proprio in Sardegna, nella zona di Cabras, dove appunto il Muggine imperversa, c'è anche, non è una tradizione, ma sì, era una tradizione locale, quella addirittura di spedire il Muggine dentro delle erbe particolari che lì si raccoglievano, impacchettato, e sembra che tenesse abbastanza per diversi giorni, va bene. Questa comunque è una chiosa molto particolare, visto che abbiamo parlato di Muggine. Allora, grazie a Silvia Gambaccini della società cooperativa Aplisi. Ah, no, volevo chiederle, lei ha parlato di un concorso nelle scuole professionali in Toscana? Stato... Sì, istituti alberghieri della Toscana hanno preparato un pranzo a base di pesce dimenticato, 5 portate, un antipasto, 2 primi e 2 secondi, e l'hanno presentato sia a ospiti che a una giuria formata da giornalisti enogastronomici e da altri personaggi. E tra poco sapremo qual è stato l'istituto vincitore. Bene, grazie Silvia Gambaccini. Ora andiamo da un grande chef, ma è anche un pescatore, quindi diciamo che conosce l'uno e l'altro appunto di questi campi. Buongiorno Luciano Zazzeri. Buongiorno andiamo alla pineta di Marina di Bubbona. Luciano, si può fare una grande cucina senza ricorrere al branzino o all'orata o a pesci di questo genere? Come no? Appunto. Sì, la voglia che... Ecco, ma secondo te appunto i pesci italiani sono conosciuti poco dagli italiani, cioè si conoscono questi 4, 5, 6? Sai, purtroppo la cultura del pesce non è lontana nel nostro paese, è molto vicina, perciò è corta e non è... La gente non capisce cos'è un cappone di fondale o cos'è un gaviglione invece di una gallinella, non conosce mucchi di pesci utilizzabili, molto buoni oltretutto, che costano anche meno. Senti, ma molte volte immagino che molti clienti che vedono certi nomi sul menù rimangono un po' sconcertati e magari ti richiedono se hai il branzino oppure altri pesci così famosi, o il tonno, perché credo che il tonno sia un altro molto gettonato. Sì, purtroppo anche il tonno è inquinato, è inflazionato. Io sono già 3 anni, l'ho levato dal menù, e mi rendo conto che l'ho fatto anche tardi. Senti, qual è il pesce che ti dà maggior soddisfazione da cucinare? Quindi magari lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, ci saranno tanti che diciamo cucinano in casa. Ecco, qual è il pesce che ritieni che sia, diciamo, ti dia appunto una soddisfazione importante a un cuoco? Ma senti, fra i pesci diciamo azzurri, i pesci poveri, lo sgombro e il zuccherello sono due pesci eccezionali. Naturalmente non è facile lavorarli, io lo capisco, però sono due pesci che rendono molto e sono eccezionali per il nostro fisico, per la nostra dieta mediterranea, però bisogna cucinarli, non è semplice, la donna oggigiorno non è che ha tanto tempo per farli. Ho fatto anche qualche piccolo corso, gli ho spiegato che si può fare anche in 10 minuti anche questo pesce, perciò è semplicissimo. Quindi diciamo che il problema è la preparazione, insomma, cioè la sfilettatura ed altro, questo è il punto. Sì. Purtroppo la sfilettatura, lo sgombro noi si rende piacevole con una piccola marinatura con sale, zucchero, arancia e timo, che leva un po' di sangue e di liquidi. Poi secondo me se si usa il nostro sgombro si può anche cuocere in padella e non come tutti dicono puzza, ma non è puzzo, poi è profumo di mare e di pesce, secondo me, usando i nostri sgombri, abbiamo meno problemi di arroganza della ciccia, dello sgombro. Se però arrivano dal Portogallo o Danimarca, insomma dall'estero come sono molto più grassi e hanno ancora un sentore più forte di pesce, perciò il nostro pesce è diverso, perciò si ritorna a chilometro zero. Ma io devo dire che ho una guerra personale in corso, ed è la guerra contro le capesante, perché sono stufo, lo ripeto, lo dico, l'ho detto già un'altra volta, sono stufo di vedere su ogni menù le capesante messe a destra e a manca, e magari sui risotti ogni tanto si trovano, diciamo, spiattellate sopra come una miss che prende il sole, e non si sa perché quel risotto sarebbe buono anche senza, giusto perché così magari nel menù si mette che ci sono anche le capesante, e devo dire che non le sopporto più il tonno, anche se so che magari è in via di estinzione o d'altro, rispetto alle capesante. Ti voglio fare un'ultima domanda. Tutti dicono che il pesce è caro, ma questi pesci, diciamo, dimenticati, cioè si trovano anche prezzi accessibili se il ristoratore va al mercato, va dal pescatore, non aspetta a casa che arrivi il distributore. Ma questi pesci sono meno costosi, però bisogna stare attenti a non farli diventare costosi, perché oggigiorno la fase commerciale è pericolosissima, perché si sta pagando il baccalà carissimo, si sta pagando il tonno carissimo, invece prima costava meno, era il piatto dei poveri, la carne dei poveri, invece ora non è stato controllato per niente l'euro, perciò questo è un problema, certo, da affrontare lo stesso. Nello stesso momento si affronta l'uso del pesce povero, si deve affrontare anche che questo pesce rimanga povero anche nel prezzo. Ho l'impressione che lo stesso fenomeno stia succedendo alle acciughe, sempre di più, perché sempre di più stanno, mi spiace dirlo questa battuta, stanno venendo di moda, e ormai baccalà e acciughe si trovano un po' dappertutto, e questo è il rischio che ci diceva appunto Luciano Zazzeri. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio, mi è rimasta l'acquolina in bocca del pesce, mi è rimasta così appunto l'acciuga, il sugarello e tanti altri pesci minori, la palamita, che è un altro pesce straordinario. Allora chiudiamo questo viaggio e vi auguriamo magari buon pranzo anche stasera, una buona cena con i pesci, soprattutto con i pesci dimenticati. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero e con i miei suggerimenti appunto alle 11:30. Un caro saluto da Davide Paolini.